Cari, sarebbe una licenza a licenziare. Ancora una giornata molto pesante per le borse. Piazza Affari perde oltre il 3%. Particolarmente male vanno i bancari. La Commissione per i diritti umani dell'ONU apre un'inchiesta sull'espulsione delle organizzazioni umanitarie dalla Sudan. Decisione presa dopo che il Tribunale dell'Aia ha ordinato l'arresto del presidente. Hillary Clinton: gli insediamenti israeliani in Cisgiordania non aiutano la pace. Poi bene il dialogo con Mosca, a patto che non sia ingerenza della Russia sui paesi dell'est. Esce oggi in Italia il film con Mickey Rourke, che ha segnato la rinascita dell'attore. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo dunque andando a Palazzo Chigi. Andiamo a Palazzo Chigi perché questa mattina di buon'ora c'è stato il CIPE, ossia il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che ha dato il via libera ad un pacchetto di 17,8 miliardi per le infrastrutture. Un miliardo di euro in più rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi. Riguarda le opere che possono essere avviate entro 6 mesi, proprio perché l'obiettivo è far ripartire l'economia. Vincenzo Miglietta, dunque, quali sono le opere finanziate? Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Il ponte sullo stretto di Messina, il completamento della Salerno-Reggio Calabria, un ulteriore contributo pubblico di 800 milioni per il MOSE di Venezia e poi 1 miliardo per le infrastrutture relative all'edilizia scolastica e 200 milioni per quella carceraria, in tutto 17,8 miliardi di euro. Di fatto Palazzo Chigi stringe i tempi, punta grazie al via libera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ad iniettare risorse fresche nel ciclo economico per contrastare la difficile congiuntura internazionale. Il pacchetto stanziato per le infrastrutture è composto da 8 miliardi e mezzo di contributo pubblico, di cui la metà per il sud, e da 8 miliardi di contributo privato. In particolare per il ponte sullo stretto di Messina il costo totale dell'opera è di circa 6,1 miliardi e le risorse varate dal CIPE sono pari a 1,3. Grazie Vincenzo, resta comunque con noi perché fra poco parleremo anche delle dichiarazioni sia di Berlusconi che di Tremonti su altre questioni economiche. Ma ora le reazioni a caldo, anzi a caldissimo. Buongiorno al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti. Buongiorno. Allora, che cosa ci dice di questo primo stanziamento del CIPE? Lei come la vede? Ma diciamo che riparte l'economia del Mezzogiorno, questo segnale di grande attenzione dà fiducia al Paese. Purtroppo avevamo registrato lo stop sia sulla grande opera del ponte sullo stretto che sull'alta velocità del governo Prodi. Oggi parte la speranza di questo federalismo che ci può mettere finalmente gli investimenti al pari degli altri regioni. Certo, manca l'alta velocità, che è un altro aspetto importante che non può non venire nel prossimo futuro, insomma. Anche i finanziamenti per quanto riguarda la 3 sono un'altra risposta importante. Eh sì, perché sindaco, prima di arrivare al ponte sullo stretto bisogna arrivarci a Reggio Calabria, anche questo è il problema. L'Italia è sempre il paese delle grandi stranezze, si deve ripartire dalle grandi opere per poi fare tutte le altre infrastrutture. Sono 50 anni che si reclamano una nuova autostrada, una nuova strada ferrata, e invece abbiamo sempre vissuto nelle grandi difficoltà e nelle emergenze. Oggi forse questo tipo di scelta potrà dare forza anche a investire sulle altre infrastrutture minori, ma che diventano ovviamente determinanti. Condivido questa considerazione e credo che questo segnale sulla 3 sia un segnale fortissimo. Insomma, l'idea di completarla, del completamento entro il 2012, rappresenta la fine di un'odissea anche sotto questo punto di vista. E andiamo ora dall'altra parte di questo ponte che verrà costruito a Messina da Giuseppe Buzzanca, che è il sindaco di Messina. Lei come la pensa? Buongiorno, intanto grazie per l'attenzione. Io penso esattamente come Beppe Bellini, che saluto. Per noi è una grande opportunità, riparte l'economia per tutto il Mezzogiorno. Per noi il ponte non è soltanto un momento di unione tra due sponde, ma è un fatto culturale che unisce civiltà. Si creerà una grande metropoli che è la metropoli dello stretto, e noi pensiamo che bisogna tuttavia immaginare tutto ciò che deve portarci al ponte e sotto il ponte, perché è evidente che bisogna arrivarci, ma è altrettanto evidente che sotto il ponte bisogna costruire due grandi città. E per questo lo sforzo deve essere massimo, la capacità progettuale deve essere affidata a personalità di altissimo profilo tecnico, ci adopereremo insieme perché bisogna fare sistema e dobbiamo cogliere l'occasione per ringraziare il governo Berlusconi e il ministro delle infrastrutture, che ha voluto fortissimamente invertire quella rotta che aveva consigliato a Prodi di bloccare una così grande infrastruttura. Grazie a Giuseppe Buzzanca, sindaco di Messina, e grazie anche al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, per essere stati con noi. Grandi opere spesso bloccate dai cosiddetti NIMBY, not in my backyard, non il mio, nel mio cortile, non nel mio giardino, ma non solo. Sentite qua. In Italia ci sono 264 impianti e infrastrutture bloccati dai contenziosi locali. Sono soprattutto inceneritori, discariche, centrali elettriche. Lo dice la nuova edizione dell'osservatorio NIMBY Forum, che fotografa un paese in cui il fenomeno delle contestazioni territoriali a sfondo ambientale è in continua crescita. In particolare giovedì a Milano il NIMBY Forum sarà presentato con un convegno in cui verranno esaminati i singoli casi e le caratteristiche della contestazione contro i progetti e gli impianti. Ma chi sono i nemici delle installazioni? Il primo nemico non sono gli ecologisti, come pensano alcuni, ma al contrario il primo motivo di fermata dei progetti è lo scontro fra le diverse istituzioni. Intervengono più spesso e con voce più tonante gli amministratori pubblici locali e solamente in secondo ordine i comitati spontanei dei cittadini. Nel 17% dei casi la presa di posizione contro gli impianti viene da parte degli enti pubblici che contestano gli atti presi da altre amministrazioni pubbliche. Al primo posto tra il tipo di progetto contestato ci sono i 97 impianti per la produzione di corrente elettrica. È impressionante il fatto che tra i più contestati ci sono gli impianti eolici, quelli geotermici e altre forme di energia pulita. Le infrastrutture in assoluto più contestate sono la TAV Torino-Lione e la discarica di Chiaiano. Jacopo Giliberto, GR24, Il Sole 24 Ore. E torniamo da Vincenzo Miglietta, perché dopo il CIPE naturalmente c'è stata la conferenza stampa e sia Berlusconi che Tremonti hanno parlato di questioni economiche, dall'assegno di disoccupazione dei precari alla situazione del nostro paese. Vincenzo. Sì, è così. Al centro della conferenza stampa del governo vi sono i commenti di ciò che sta facendo Palazzo Chigi per fronteggiare la crisi economica. Da qui subito una precisazione del ministro dell'economia Tremonti. Ascoltiamo le sue parole. Che la situazione sia difficile lo sanno tutti e non c'è bisogno di un ministro che lo dica. Che la situazione sia sotto controllo, il Presidente e il Governo la tengono sotto controllo, ma usare quelle parole senza che uno l'abbia dette è oggettivamente disinformazione. La crisi c'è, è di fatto il ragionamento del governo, ma la situazione è sotto controllo e Tremonti smentisce di fatto quanto riportato oggi dai giornali su sue affermazioni relative al 2009. Dannoso per l'interesse di tutti, ha spiegato lo stesso Berlusconi che i mezzi di informazione continuino a rappresentare la crisi come qualcosa di tragico. Ascoltiamo allora Berlusconi. Questa crisi che esiste, e noi non è che chiudiamo gli occhi di fronte a una crisi che c'è, che viene vissuta sui media in maniera più drammatica di quanto non sia, perché quando anche si guarda alle borse che calano e alle azioni, ma se si guarda quante sono le azioni che sono state cambiate a certi prezzi, si vede che sono una manciata di azioni. Il Premier ha detto ancora no poi all'ipotesi di un assegno di disoccupazione per i precari, sarebbe licenza di licenziare, ha detto. Per il mondo del lavoro Berlusconi ha annunciato lo stanziamento di altri 4 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali. Complessivamente, ha concluso Berlusconi, la somma diventa di 9 miliardi. E da Roma è tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta. Sentivamo il Presidente del Consiglio parlare dell'andamento delle borse. Ebbene, Deborah Rosciani, la situazione anche oggi mi sembra tutt'altro che positiva. Poi magari se vuoi ci soffermiamo anche sulla quantità di azioni scambiate. Sì, non ho questo dato adesso a portata di mano. Sicuramente nel vortice degli scambi stamattina è finita Piazza Affari. Vi do solo un'indicazione per dimostrarvi quello che sta accadendo oggi in borsa. Dopo i pesantissimi ribassi di ieri, l'Europa ha tentato di rimbalzare. Il rimbalzo è fallito subito. Adesso ci sono di nuovo dei cali di circa mezzo punto percentuale fra listini del vecchio continente. Londra perde un po' meno, perde lo 0,07%. Milano perde il 3,34% sull'S&P. MIB è arrivata a perdere anche 4 punti. Colpa delle banche che stanno scivolando tutte pesantemente, ma è soprattutto colpa di questo rapporto di JP Morgan, una grande casa di investimento che ha lanciato un prodotto e in questo prodotto ha inserito come investimento anche l'investimento in Italia, considerato però il paese più a rischio di fallimento fra gli 8 proposti in questo paniere di paesi appunto proposti. Questo tanto per darvi l'idea di quello che accade, di qual è la percezione in questo momento nel panorama degli investitori internazionali. Nazionale, nostro paese. paese, appunto. I titoli bancari che perdono di più rapidamente: Banco Popolare meno 8, Obibanca meno 8, Mediolanum meno 8, Intesa San Paolo meno 8, è arrivata a perdere il 17%, Mediobanca meno 7, Generali meno 7. Direi che posso fermarmi qua. Grazie Deborah Rosciani, vi ricordiamo naturalmente che tutti gli aggiornamenti di borsa come sempre alle 13.30 in collegamento con la redazione di Radio Corra. E noi passiamo alla cronaca, adesso perché è sempre più un giallo lo stupro della Caffarella. In collegamento dalla redazione di Roma abbiamo il nostro Andrea Viali. Allora Andrea, che cosa si sa e che cosa si apprende in una situazione che apparentemente è sempre più confusa? Esatto Simone, diciamo che tra confessioni che poi sono state ritrattate e identikit che non tornano del tutto, sta diventando un vero e proprio giallo. L'unica certezza al momento è che per la violenza sessuale, che ricordiamo era avvenuta nel giorno di San Valentino nel parco della Caffarella a Roma, restano in carcere i due romani che erano stati arrestati nei giorni scorsi, Alexandru Istoikaloios e Carol Rax. Ieri però è successo che nuovi accertamenti genetici avrebbero confermato che non appartengono a loro le tracce genetiche che erano state estratte dai reperti raccolti e analizzati dalla polizia scientifica. In pratica i nuovi test sembrerebbero scagionarli, anche se gli inquirenti hanno fatto sapere che le analisi di laboratorio non sono ancora concluse perché devono essere ancora analizzati i vestiti indossati dalla ragazzina vittima della violenza e anche un impermeabile con una macchia di sangue che le era stato prestato subito dopo lo stupro dalla proprietaria di un bar. Contro i due romani d'altro canto ci sono però il riconoscimento di uno di loro, di Loios, fatto appunto dalla ragazzina, e la sua confessione videoregistrata, anche se poi è stata ritrattata, nella quale il giovane romeno, il biondino, avrebbe fornito particolari che secondo gli investigatori solo chi ha preso parte allo stupro poteva conoscere. A dare una prima valutazione di questi elementi, degli elementi raccolti finora dagli inquirenti, sarà il Tribunale del Riesame di Roma, che lunedì dovrà comunque analizzare le richieste di scarcerazione presentate dai legali dei due romani. Difficilmente però uno dei due, Carol Rax, sarà rimesso in libertà perché ieri gli è stata notificata in carcere una nuova ordinanza di custodia cautelare, stavolta per un altro stupro, quello avvenuto a fine gennaio nel quartiere di Primavalle, sempre a Roma. La vittima, una donna di 41 anni, l'avrebbe infatti riconosciuto. C'è poi in conclusione anche una terza pista, una nuova pista che porterebbe verso un terzo uomo, se ne parla da parecchio. A quanto pare alcune delle tracce di DNA rilevate dalla scientifica apparterebbero ad un altro romeno che però è detenuto nel suo paese. Staremo a vedere quali saranno ora gli sviluppi, per il momento è tutto a quella linea. E grazie Andrea per questi aggiornamenti, anche per averci aiutato a capire. Noi adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di cinema. Parliamo di cinema infatti, perché esce oggi in Italia il film The Wrestler con Mickey Rourke, che dopo aver vinto il Leone d'Oro a Venezia ha sfiorato l'Oscar. È la storia di rinascita di un vecchio lottatore, ma fuori dallo schermo è un po' anche la storia della rinascita di Mickey Rourke. Non ha più la faccia irresistibile da amante mascalzone. È gonfio, invecchiato, i lineamenti innaturali di chi troppo si è rotto e troppo è male si è fatto riaggiustare. Ma Mickey Rourke è tornato alla grande. Con The Wrestler ha perso per regolamento la Coppa Volpi come miglior attore a Venezia. Il film era già Leone d'Oro e ha mancato di poco l'Oscar. Per lui, però, è il segno della rinascita. E dire che il ruolo di Randy the Ram Robinson non doveva nemmeno essere suo, perché era stato offerto a Nicolas Cage. Ma il regista Darren Aronofsky ha accettato la sfida di dirigere Rourke e ha fatto centro. Darren, I couldn't bullshit him. Before I come up non potevo fregarlo, mai, riconosce Rourke. Ogni volta che cercavo una scusa per non lavorare, mi beccava e mi costringeva. Necessario con un cavallo pazzo come lui, che nel periodo più buio della sua carriera era ridotto alle produzioni di serie B. I registi non si fidavano e le major non volevano più assicurarlo. Piuttosto che recitare, preferiva combattere, un'attività troppo a rischio. Che cosa vuoi da me? Sono un vecchio pezzo di carne maciullata. Me lo merito di restare da solo. Voglio soltanto che tu non mi odi. Ma adesso non vorrà mica convertirsi al wrestling? It's not my thing. Non fa per me, assicura e rassicura, anche perché ora tocca resistere sulla cresta dell'onda. La prossima occasione potrebbe essere Iron Man 2. Per ora pare che la casa di produzione non gli voglia offrire più di $250,000, troppo pochi per chi è stato all'inferno ed è tornato indietro. Due parole, rivincita. Ci sto. Con un po' di fortuna sarà il mio biglietto per tornare in cima. Marta Cagnola, GR24, il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. 4 miliardi stanziati per gli ammortizzatori sociali. Oggi annuncia Berlusconi, che dice l'assegno di disoccupazione sarebbe una licenza di licenziare. La crisi c'è, ma è drammatizzata dai mass media, annuncia. E oggi ancora una giornata negativa per le borse. Listini europei di nuovo in calo di circa mezzo punto percentuale, ma va malissimo Milano, che lascia sul terreno oltre il 3%. A pesare un giudizio sull'Italia della banca d'affari JP Morgan. Quasi 18 miliardi per le opere pubbliche, costruzione del ponte sullo stretto è quel che ha deciso il CIPE, che si è riunito questa mattina a Palazzo Chigi. Il costo totale dell'opera del ponte è di 6,1 miliardi e le risorse che il CIPE doveva varare, che hanno ottenuto l'ok, sono 1,3 miliardi. Vogliamo costruire un futuro con la Russia, lo dice il segretario di Stato americano Hillary Clinton parlando al Parlamento europeo. La Clinton incontrerà nel pomeriggio il collega russo Lavrov. Sono stati truffati oltre 300 marocchini che volevano venire in Italia per lavorare. 6 persone sono state arrestate con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Si facevano pagare finti contratti con le aziende. Il Milan e il Galaxy stanno per chiudere il trasferimento di David Beckham al club rossonero con la formula del prestito fino alla 30 giugno prossimo. Decisiva ancora una volta è stata la volontà del giocatore, che per rimanere in Italia ha rinunciato a circa 2 milioni di euro di ingaggio. Se ne discute moltissimo in questi giorni e, come sapete, il governo è intenzionato a varare un provvedimento per parificare l'età di pensione tra uomini e donne nella pubblica amministrazione sulla scorta di una sentenza della Corte di Giustizia Europea. Alessandra, cosa dice questa sentenza? Allora, questa sentenza dice di fatto che l'Italia viola un articolo del Trattato Europeo che riguarda la parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. In che modo la retribuzione, la pensione e l'età pensionabile sono legati? Beh, la Corte sottolinea che, visto che in Italia la pensione viene calcolata sulla base degli anni di servizio prestati e in base all'ultimo stipendio del dipendente pubblico, costringere le donne ad andare in pensione 5 anni prima degli uomini, le si condanna di fatto a percepire una pensione inferiore. Quindi, in questo senso, le donne guadagnano meno degli uomini. Ed è della Corte di Giustizia Europea e delle sue sentenze che vogliamo parlare col professor Ugo Draetta, che insegna all'Università Cattolica di Milano ed è un esperto di diritto comunitario. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto, quanto l'Italia è obbligata a rispettare questa sentenza della Corte di Giustizia Europea ed eventualmente se ci sono delle sanzioni a cui andrebbe incontro? L'Italia, come tutti gli altri Stati membri, è pienamente, totalmente obbligata a adeguarsi alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tra i suoi compiti, ha quello di vigilare sull'adempimento da parte degli Stati degli obblighi incombenti degli Stati secondo il Trattato e secondo gli atti comunitari, e la Commissione, che può portare uno Stato inadempiente davanti alla Corte di Giustizia, si apre un dibattito tra la Commissione e lo Stato che si difende, e se lo Stato è condannato è tenuto a conformarsi. Se non si conforma, con una seconda sentenza la Corte può condannare lo Stato a una pena pecuniaria. La storia recente mostra che le sentenze della Corte di Giustizia sono, nella stragrande maggioranza dei casi, rispettate. Occorre sfatare una diceria, che cioè l'Italia è sempre lo Stato condannato più di frequente. Questo non è vero, ci sono sentenze contro l'Italia, ma non molte di più di quelle in media contro tutti gli altri Stati. Professore, ricorda casi di clamoroso mancato rispetto delle sentenze della Corte di Giustizia anche da parte dell'Italia? Sì, per esempio tutta la politica energetica, le direttive europee sul gas e sull'elettricità, che imponevano due cose: l'unbundling, cioè la separazione della produzione dalla rete e la liberalizzazione del mercato interno sono state violate dall'Italia, lo sono ancora, perché questa separazione per quanto riguarda il gas, come lei sa, non c'è. Stiamo pagando una sanzione? No, non ancora, dobbiamo adeguarci, ma la materia è in evoluzione, perché a livello europeo ci si sta rendendo conto che forse più che al mercato interno dell'energia occorre pensare ai rapporti con i monopolisti esterni, perché liberalizzare all'interno e creare una concorrenza all'interno quando non c'è concorrenza a livello di chi fornisce il gas, che sono un duopolio, o il petrolio, potrebbe non essere una politica giusta. Bene, grazie a Ugo Draetta, che insegna alla Cattolica ed è un esperto alla Cattolica di Milano, all'Università Cattolica di Milano, ed è un esperto di diritto comunitario, per essere stato con noi ed averci aiutato a capire. Passiamo alla cronaca, Alessandra. Passiamo alla cronaca. C'è stata un'operazione della polizia contro un'organizzazione che falsificava documenti per ottenere visti d'ingresso per lavoro in Italia. 300 marocchini che volevano immigrare in Italia per lavorare sono stati truffati da un'organizzazione criminale capeggiata da un loro connazionale. La banda procurava falsi contratti e false autorizzazioni dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Trento e li vendeva per diverse migliaia di euro, dai 5 ai 7 mila euro, ai 300 cittadini marocchini che volevano appunto lavorare in Italia. Questi ultimi, dopo aver versato il denaro, si vedevano negare il visto dagli uffici diplomatici, sia dal consolato italiano di Casablanca che dall'ambasciata di Rabat. Il dirigente della squadra mobile di Trento, Roberto Giacomelli. È stata un'indagine abbastanza complessa, perché è partita da delle indicazioni a una collaborazione iniziale fatta con il consolato marocchino di Milano e con l'ufficio provinciale del lavoro di Trento. Tutto falsificato e tutto veniva predisposto in due località, a Milano e a Bolzano. 6 le persone arrestate, per lo più di nazionalità marocchina ed egiziana. Soltanto uno è di nazionalità italiana ed è stato arrestato a Milano. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. In Italia arrivano anche molti stranieri minorenni. Per loro si pone un problema particolare. Per l'accoglienza, l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, ha fatto il punto sul fenomeno. Hanno tra i 15 e i 17 anni, sono soprattutto maschi e in Italia ci arrivano da soli. Documenti falsi in tasca, si nascondono nelle stive dei traghetti o nei bagagliai dei furgoni, sperando di superare i confini senza intoppi. Ad aspettarli al loro arrivo non c'è nessuno. I minori stranieri non accompagnati in Italia sono quasi 8.000. Partono in gran parte dal Nord Africa e sbarcano in Sicilia o raggiungono via terra la Lombardia. Ad accoglierli ci pensano i comuni, nonostante la mancanza di risorse. Il vicepresidente dell'ANCI, Fabio Sturani. Oggi viene scaricato completamente questo onere sulle casse comunali, una politica di welfare, di assistenza, di accoglienza che è fondamentale, che è doveroso, ma dall'altro lato senza risorse da parte dello Stato. Un aiuto arriva dal programma di protezione dei minori stranieri non accompagnati del Ministero del Welfare, che mette a disposizione dei comuni 8 milioni di euro. Maurizio Silveri, direttore generale per l'immigrazione del Ministero. L'obiettivo principale è creare una rete di sostegno per la gestione complessiva dei minori stranieri non accompagnati, che va dalla identificazione ai programmi di integrazione. Paola Cavadi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora veniamo a una buona notizia che arriva stavolta dal mondo della medicina, perché c'è una speranza in più per i bambini colpiti da leucemia acuta. Un'equipe del Gaslini di Genova e del San Matteo di Pavia ha messo a punto un sistema per rendere compatibile il midollo osseo dei genitori. Fino ad ora il trapianto con il midollo della madre o del padre era considerata l'ultima spiaggia. Ora potrà servire a curare i bambini che non trovano un donatore compatibile o che non possono essere sottoposti a chemioterapia. Al microfono di Nicoletta Carbone, l'immunologo del Gaslini, Lorenzo Moretta. Il nostro studio dimostra che un tipo di trapianto, un trapianto aploidentico da genitore, riesce a curare circa il 75% di bambini leucemici per i quali la chemioterapia ha fallito, per i quali non è stato possibile trovare in tempi utili un donatore. Perché è importante il trapianto aploidentico? Primo, perché è disponibile immediatamente. È un trapianto peraltro difficile, nel senso che è identico a metà, cioè nel senso che tutti noi ereditiamo dai genitori metà del nostro patrimonio genetico e quindi anche gli antigeni di sua compatibilità. Quindi cosa succede? Che noi dobbiamo eliminare le cellule cellule che causerebbero gravissimi danni, danni mortali, cioè i linfociti T dal trapianto. Quindi noi in realtà quello che infondiamo in questo trapianto sono cellule staminali emopoietiche, cioè quelle che rigenerano tutte le cellule del sangue. Tra queste cellule rigenerano anche particolari cellule, cellule natural killer, che sono un po' la chiave di volta, perché sono proprio queste cellule che vanno a distruggere la leucemia residua. Quindi selezione del donatore più appropriato, poi abbiamo potuto seguire la presenza di queste cellule anche nel piccolo paziente e dimostrare che in tutti quei casi in cui queste cellule rimanevano a livelli elevati, praticamente guarivano dalla leucemia. E diciamo che la proiezione ci dice che circa il 75% di questi bambini sopravvivono, e ricordiamo che questi bambini sarebbero tutti morti senza questo tipo di intervento. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. 4 miliardi per gli ammortizzatori sociali sono stati varati dal governo, annuncia Berlusconi, che interviene anche sulla proposta del PD di un assegno di disoccupazione. Il sistema attuale è già un sistema che ci consente di intervenire, di modulare gli interventi e di farlo in maniera assolutamente opportuna, migliore di quella che non sarebbe certamente se adottassimo una misura come quella che è stata preconizzata, misura che sarebbe una licenza di licenziare. La crisi c'è, ma è drammatizzata dai mass media, aggiunge il Premier. E oggi è ancora una giornata negativa per le borse. Listini europei in calo di circa un punto percentuale, ma va malissimo Milano, che lascia sul terreno oltre il 3%. A pesare un giudizio sull'Italia da parte della banca d'affari JP Morgan. Quasi 18 miliardi per le opere pubbliche stanziati dal CIPE, via libera ad 1 miliardo e 300 milioni per la costruzione del ponte sullo Stretto. Risorse anche per la Salerno-Reggio Calabria, la statale ionica e l'edilizia scolastica e carceraria. Vogliamo costruire un futuro con la Russia, lo dice il segretario di Stato americano Hillary Clinton parlando al Parlamento europeo a Bruxelles. La Clinton incontrerà nel pomeriggio il collega russo Lavrov. Il maltempo colpisce anche il sud. Dalle prime ore di stamattina sono in corso forti nevicate lungo la Trenta, nelle zone di Campotenese e Frascineto e tra Rogliano e Altilia, dove si transita con l'obbligo di catene a bordo. Forti mareggiate colpiscono anche Sardegna e Sicilia. Il Milan e la Galaxy stanno per chiudere il trasferimento di David Beckham al club rossonero con la formula del prestito fino al 30 giugno prossimo. Decisiva ancora una volta la volontà del giocatore, che per rimanere in Italia ha rinunciato a circa 2 milioni di euro di ingaggio. Siamo alla nostra ultima puntata del viaggio in quello che abbiamo chiamato il welfare delle parrocchie. Sono quelle che abbiamo definito le parrocchie anticrisi, che si sono mobilitate per fornire un sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Progetti di microcredito, ma non solo, come Maria Luisa Pezzali ha avuto modo di raccontarvi in questa settimana. Oggi per chiudere la testimonianza di chi si è trovato nella condizione di chiedere e ricevere questo tipo di aiuto. Quella che vi raccontiamo oggi è una storia come tante, la storia di chi mai avrebbe immaginato di avere bisogno di un aiuto economico per coprire quelle che per una famiglia sono le spese ordinarie, bollette, affitto, un conto imprevisto. È la storia di Mario, il nome di Fantasia La Voce è stata modificata per motivi di riservatezza. 66 anni, qualche anno fa la perdita del lavoro, poi un problema di salute, l'inizio di una rovina fatta di graduali ma inesorabili sgretolamenti. Fino alla richiesta di aiuto accolta dalla Caritas di Prato. Io, dopo aver fatto un iter di lavoro abbastanza proficuo, mi sono ritrovato pian pianino, vuoi perché a Prato il tessile, che ha sempre dato da mangiare a tutti, ha cominciato a perdere colpi. E allora chiude l'altra ditta, uno prova a trovare lavoro, pian pianino si ritrova ad avere un lavoro non idoneo alle proprie capacità. Ho avuto delle crisi di cuore e mi hanno fatto i bypass. Da quel giorno lì ho perso il lavoro e non l'ho più ritrovato. Sono riuscito con varie peripezie ad avere una pensione di invalidità, ma una cosa abbastanza minima, perché attualmente sono 600 euro. Mi sono ritrovato proprio dietro a questa crisi particolare di Prato ad avere sia la figliola che il genero disoccupati e il figliolo uguale disoccupato, perché insieme alla figliola lavoravano nella stessa ditta. Mi hanno messo in condizione, essendo l'unico ad avere un reddito certo, anche se minimo, ad andare a chiedere dei prestiti per queste finanziarie che attualmente ci sono in giro. Poi il vescovo al quale mi ero rivolto mi ha indirizzato alla Caritas, hanno ritenuto che fosse idoneo e ho potuto avere 5.000 euro di prestito da restituire con interessi minimi e con questo ho cominciato a tirare avanti. Vorrei anche fare un appello a tutte quelle persone che si trovano in queste condizioni e che poi si vergognano di andare in questi luoghi per chiedere un aiuto. Bisogna, dove viene dato, andare senza vergognarsi per prendere. Maria Luisa Pezzali, GR 24 e Sole 24 Ore. Come vi abbiamo raccontato, oggi il nostro ministro dell'economia ha negato di aver mai detto che il 2009 sarà un anno terribile, pur ammettendo insomma che in qualche modo le previsioni sono peggiorate. E oggi il Financial Times, Giulia Crivelli, gli dedica cosa? Una pagina, una foto? Un lungo articolo, un articolo con una foto molto significativa. Ci sono, tra l'altro, proprio sopra Tremonti c'è una foto altrettanto significativa di Trichet. Sono foto in cui entrambi gli economisti, Trichet, governatore della Banca Europea, e Tremonti, nostro ministro dell'economia, si sorreggono il viso con una mano e hanno gli occhi chiaramente preoccupati. L'articolo naturalmente torna su quello che è stato detto ieri e il titolo è: l'Italia adesso ha una linea un po' più sobria sull'economia, un modo carino per dire che forse fino adesso si era un po' negata l'evidenza e invece qualcuno, Berlusconi compreso, ha cominciato ad ammettere, a usare questa parola così temuta, che è la parola crisi, pur dicendo naturalmente che viene amplificata dai media, l'abbiamo sentito. Certo, l'abbiamo sentito, infatti. Passiamo all'Economist, Giulia. L'Economist invece ha preso una posizione molto forte dalla sua copertina, il titolo è How to Stop the Drug Wars, come fermare le guerre legate alla droga. L'Economist decide una volta per tutte che il proibizionismo ha fallito e quindi anche tutti i tentativi di appunto fare guerra ai trafficanti di droga, bisognerebbe pensare a una legalizzazione delle droghe seria, che non viene certo, non è una posizione che viene abbracciata serenamente, viene chiamato il minore dei mali. Il proibizionismo invece finora ha soltanto alimentato, come in molti sostengono, la criminalità organizzata. Naturalmente l'Economist suggerisce poi, è un'inchiesta amplissima che tocca tutti i fronti, che naturalmente contemporaneamente bisogna educare a partire dalle scuole, magari anche dalle elementari, educare i bambini, far capire quali sono i pericoli della droga, però il proibizionismo ha fallito secondo il settimanale britannico. Giulia, brevemente, stiamo continuando a seguire la vicenda della, chiamiamola, Tangentopoli spagnola. Quali sono le ultime evoluzioni? Sarebbe divertente ripescare alcuni dei giornali quando la nostra Tangentopoli è scoppiata, perché il grande scandalo che il Paese denuncia oggi è che Garzón, che sappiamo questo giudice d'assalto che sta appunto portando avanti questa inchiesta, che vede coinvolto sostanzialmente il Partito Popolare, il partito in questo momento all'opposizione, quello dell'ex premier Aznar, ha scoperto che due esponenti del Partito Popolare gli venivano regalati vestiti su misura, e questa è una cosa gravissima che viene bollata come una forma di corruzione massima. Naturalmente noi sappiamo che purtroppo poi è tutto relativo, perché noi abbiamo visto forme di corruzione molto più gravi. Finora Garzón per certo ha scoperto questo ed è sufficiente per appunto parlarne come di un grave scandalo. Grazie Giulia, ci risentiremo con te naturalmente lunedì per la rassegna stampa internazionale. Continuiamo a restare agli esteri, perché Hillary Clinton oggi pomeriggio incontrerà il suo omologo, il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, a Ginevra. Stamattina la Clinton ha detto chiaramente che va bene l'impegno della NATO di riprendere il dialogo con Mosca, ma questo non potrà minare il sostegno americano per paesi come la Georgia, i Baltici o i Balcani, affinché siano indipendenti e liberi senza alcuna ingerenza da parte della Russia. L'analisi di Antonella Scott. L'arrivo di Barack Obama alla Casa Bianca ha alimentato grandi aspettative attorno al rilancio dei rapporti con la Russia. Due presidenti giovani, promessa di un cambiamento, saranno presto di fronte. Tuttavia Mosca sta giocando la carta che le viene offerta con grande attenzione e ha già fatto capire che non regalerà nulla a Obama solo per migliorare un legame che con Bush e Putin ha fatto grandi passi indietro. Nessuno del resto sa con certezza quanto Medvedev potrà essere indipendente e liberale nelle sue scelte, e nessuno sa se Obama, incontrando Medvedev, in realtà dovrà sempre fare i conti con Putin. Gli Stati Uniti hanno bisogno della Russia per appoggiare l'offensiva in Afghanistan, per ammorbidire l'Iran, per combattere la non proliferazione. I russi alzeranno il prezzo il più possibile. Non gli basta che Obama rinunci al progetto di scudo spaziale in Europa. Poi ci sono l'Ucraina, la Georgia, questioni che resteranno aperte a meno che Washington non faccia un passo indietro in quella che Mosca considera la sua zona di influenza. I russi non chiedono niente di meno. Antonella Scott, GR24, Sulle 24 Ore. Carlo Genta, forse molti giocatori fuggirebbero dal Milan, in questo momento invece ce n'è uno che paga per rimanerci. Sì, esatto, è David Beckham, buongiorno a tutti. Non è ancora ufficiale, però insomma rimarrà al Milan come si sospettava. Paga 2 milioni di euro, mica pochi, per rimanere rosso e nero praticamente in questo gioco ad incastri. Los Angeles Galaxy, con cui ha un lauto contratto, chiedevano 10 milioni di dollari per lasciare Beckham al Milan. Il Milan ne offriva 3, 2 li mette Beckham, 3 più 2 fa 5, ci si incontra a metà strada e Beckham dunque, ripeto, non è ancora ufficiale, ma resterà al Milan fino al 30 giugno, quindi chiuderà la stagione in rossonero, poi andrà negli Stati Uniti per giocare la fine del campionato statunitense con i Los Angeles Galaxy, quindi tornerà a Milano, però soltanto da gennaio prossimo sarà definitivamente del Milan. Quindi globetrotter David Beckham, un po' più povero, ma probabilmente anche più felice perché rimane nel calcio che conta. Grazie Carlo Genta, con te ci risentiremo fra pochissimo intorno alle 14 con Palla Spichi, ma c'è un'altra notizia di sport, in questo caso riguarda il nuoto. Sì, è arrivata da poco e riguarda Federica Pellegrini, era pronta a tuffarsi in acqua per le batterie dei 400 stile libero ai campionati primaverili di Riccione e ha deciso di rinunciare. La campionessa veneta è tornata negli spogliatoi e ha abbandonato la struttura. Non sono ancora chiari i motivi della sua decisione, se si sia magari trattato di un malore come già le capitò a Genova pochi mesi fa o di una misura precauzionale. E ora sentiamo dove ci porta oggi il nostro gastronauta Davide Paolini. Per una serata particolare a Firenze vi consiglio la cantinetta Antinori, bene, un cognome che richiama il vino ed è ovviamente gestita dalla casa vinicola e qui troverete tutti i vini prestigiosi di questo produttore toscano, ma non solo, si possono mangiare alcuni piatti di una cucina tipicamente toscana, esempio i crostini al cavolo nero, la ribollita, le fettuccine al sugo d'anatra, lo stracotto e si può finire con i cantucci al vin santo, ovviamente targato Antinori. Buona serata. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Anche oggi una giornata negativa per le borse, va molto male Milano che lascia sul terreno oltre il 3%. 4 miliardi per gli ammortizzatori sociali, annuncia Berlusconi, che sull'assegno di disoccupazione dice è una licenza di licenziare. La crisi c'è ma è drammatizzata dai mass media, aggiunge il Premier. Quasi 18 miliardi per le opere pubbliche stanziati dal CIPE, via libera ad 1 miliardo e 300 milioni per la costruzione del ponte sullo stretto. Vogliamo costruire un futuro con la Russia, sono parole del segretario di Stato americano Hillary Clinton, pronunciate al Parlamento europeo. Il Milan e il Galaxy stanno per chiudere il trasferimento di Beckham. Il giocatore, per rimanere in Italia, ha rinunciato a circa 2 milioni di euro di ingaggio. Rischia il collasso la situazione dei profughi del Darfur dopo l'espulsione delle organizzazioni umanitarie decise dal governo del Sudan. La decisione è arrivata dopo il mandato di cattura spiccato contro il presidente Omar al-Bashir dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. E la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite annuncia l'apertura di un'inchiesta. 13 organizzazioni umanitarie che danno assistenza ai profughi del Darfur sono state espulse. Tra queste c'è Medici Senza Frontiere. Due delle sue sezioni hanno già ricevuto l'ordine. Altre tre per il momento continueranno ad operare. Il presidente Omar al-Bashir ha accusato le ONG di essere strumenti del neocolonialismo. Il direttore generale di Medici Senza Frontiere, Kostas Moskokoritis. Ovviamente respingiamo assolutamente ogni legame con la Corte Penale Internazionale e anche dico l'accusa di colonialismo. Si valuta che dal 2003, cioè da quando è cominciata la crisi del Darfur, oltre 2,5 milioni di persone siano state costrette ad abbandonare i loro villaggi. Cosa succederà ora alla popolazione che veniva assistita dalle organizzazioni internazionali? Andrea Ciocca, responsabile della logistica per Medici Senza Frontiere, rientrato da alcune settimane dal Darfur. È molto grave per la popolazione, perché tutta questa gente che vive lontano dalle proprie case non ha possibilità di curarsi, non ha possibilità di procurarsi cibo autonomamente, quindi la loro sopravvivenza è evidentemente diretta, dipende direttamente dalla presenza e dall'operato di queste organizzazioni. Alcune organizzazioni sono state espulse direttamente dal governo, altre stanno abbandonando il paese perché non possono più garantire ai propri operatori le condizioni di sicurezza. Le vittime di questa situazione sono ovviamente le persone che si vedono mancare la possibilità di avere acqua potabile, di avere cibo e di avere cure mediche. Cristina Ballotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E continuiamo a parlare di diritti umani. Sì, nello Yemen il caso di una sposa bambina sta diventando un simbolo. In seguito alla sua storia l'età minima per il matrimonio era stata alzata a 17 anni, ma ora un gruppo di parlamentari vuole tornare indietro. Ce ne parla Adib Fateh Ali. Non facevo una vita normale. Si esprime così oggi la bimba yemenita diventata nota in tutto il mondo per avere all'età di 8 anni chiesto e ottenuto il divorzio da un marito trentenne che la picchiava perché non voleva fare l'amore con lui. La testimonianza della piccola, oggi simbolo della rottura della tradizione islamica dei matrimoni precoci combinati, è inserita in un'inchiesta del giornale Ashraf al-Awsat contro una proposta di legge presentata da alcuni deputati per abbassare l'età minima di 17 anni fissata dal Parlamento di Sana'a proprio sull'onda del clamore suscitato dal suo caso. Vincitrice assieme a Hillary Clinton e Nicole Kidman del premio Glamour America come donna dell'anno 2008, Nujood Ali all'età di 10 anni, dalla sua classe di terza elementare, chiede alle sue coetanee di emulare il suo esempio e ai parlamentari del suo paese di bocciare la proposta degli islamici. Adib Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo parlando dei maestri del fumetto. È la collana del Sole 24 Ore dedicata appunto ai grandi disegnatori. Oggi c'è in edicola il primo volume dedicato a Corto Maltese di Ugo Pratt. Le prossime uscite ogni venerdì. E proprio sul successo di Corto Maltese Dario Ceccarelli ha intervistato il critico Goffredo Fofi. Perché si dice che con Corto Maltese il fumetto raggiunge, diciamo, la maggior età? Ma non so se è con Corto Maltese, certamente è in un periodo di grande vitalità del fumetto. Corto Maltese porta nel fumetto, rispetto ai supereroi americani, porta quest'idea che è argentina, ma poi che diventa l'avventura di per sé, la nuova avventura, quindi legata anche alle nuove idee degli anni 60, al soggettivismo giovanile degli anni 60, in qualche modo anche al 68. Questa avventura, questo eroe, che è un eroe positivo con connotazioni fortemente umanistiche, solidaristiche, attenzione agli umili, agli oppressi, eccetera, eccetera. Credo che il successo di Corto Maltese e la sua importanza storica dipendono proprio da questa capacità di legare dei modelli di avventura, diciamo pure adolescenziale, con dentro però dei contenuti che rispondono a delle mutazioni storiche molto importanti, molto grandi che ci sono state in quegli anni. Piace perché in fondo è un perdente, un romantico di un altro secolo, si può dire questo? Si può dire, perché in fondo la vera matrice, nonostante sia americano e quindi considerato magari dai giovani disegnatori d'allora come un rappresentante dell'impero, la matrice è Hemingway, la matrice è l'eroe perdente di Hemingway, l'eroe che lotta per la giustizia, perde ma muore in piedi, muore con onore. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Peter Bescapè. Vi ricordiamo il prossimo GR alle 15, GR Extra Large invece tornerà lunedì con l'altra coppia, con Anna Migliorati e Alessio Maurizi. Se volete scriverci potete farlo, extralarge@radio24.it, se volete riascoltarci www.radio24.it. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.